Il primo giorno della rivoluzione ho partecipato ad un corteo che partiva da piazza Mustafa Mahmoud. Quando la manifestazione è entrata a piazza Tahrir, ho sentito i giovani intonare slogan di protesta, mentre le truppe di sicurezza che circondavano la piazza erano pronte all'attacco. Quei canti di ribellione mi hanno riempito il cuore. Provavo emozioni forti e contrastanti, un sentimento di profonda paura si è impadronito di me. Mi sono una sensazione di grande gioia. Ero felice perché ora avevo la forza di dire no, a voce alta. Potevo urlare contro la repressione. Piano piano mi sono unita ai cori che si innalzavano dalla folla e ho iniziato a cantare anch'io. Cantavamo contro l'ingiustizia e l'oppressione. La rivoluzione mi ha insegnato a non avere più paura. La mia famiglia mi ha educato e cresciuto nella paura. Io ho 29 anni ed ho sempre vissuto nel terrore, sia a casa che in strada ed anche a scuola. Per me, come ragazza, questa è un'esperienza nuova. Sono cresciuta sapendo che una donna non può manifestare apertamente il suo pensiero, non può dire di no né parlare in presenza di anziani e che non può mai esprimere un desiderio. Ciò che più ho imparato dalla rivoluzione è il coraggio. Nel nome di Dio misericordioso, mi chiamo Waida. Sono una donna e vengo dalla regione dell'Alto Egitto. Ho lasciato la mia famiglia ormai 10 anni fa. Sono partita per studiare all'Università del Cairo. Anche il Cairo, che è considerata la grande capitale d'Egitto, ha un livello di povertà altissima. È una città di forti contraddizioni, dove si possono trovare palazzi di lusso che sorgono accanto a vere e proprie baraccopoli, dove la gente vive nella miseria. La rivoluzione doveva esplodere. L'analfabetismo, il malessere e la povertà affliggono il nostro paese, per non parlare delle umiliazioni che subivamo dal regime. Bisognava stare attenti perfino a respirare e discutere di politica era proibito, un vero tabù. Agenti del governo e servizi segreti erano presenti ovunque e per questo i cittadini vivevano nel terrore. Durante la rivoluzione abbiamo chiuso tutte le strade che portano a piazza Tahrir per cercare di tenere fuori dalla piazza i teppisti e gli infiltrati del regime. Controllavamo gli ingressi senza interruzione, notte e giorno. Ed io facevo parte di un gruppo di ragazze che si occupava di ispezionare e perquisire le donne ai varchi. Altre volte invece andavamo nella zona degli scontri e portavamo delle bottiglie d'acqua da distribuire ai ribelli che combattevano in prima linea. Piazza Tahrir, durante la rivoluzione, era davvero ben organizzata. A gruppi facevamo turni di guardia per controllare e proteggere le vie d'accesso. C'era chi in prima linea contrastava esercito e polizia per difendere la piazza. Negli ospedali da campo lavoravano medici e dottori che si prendevano cura dei feriti. Altre persone invece provvedevano al sostentamento della piazza, cercando di recuperare denaro per acquistare cibo e bevande da offrire ai manifestanti. Funzionava tutto benissimo, era un'orchestra sinfonica che eseguiva una partitura. Marciavamo cantando. Il Consiglio Supremo delle Forze Armate deve lasciare il potere. E quando abbiamo raggiunto il Ministero della Difesa c'è stata una vera carneficina. Lì sono iniziati gli scontri. Eravamo in trappola. Io sono rimasta profondamente stupita nel trovare gruppi di teppisti tra noi e i reparti antisommossa. Ogni volta che c'è un problema, i media accusano i teppisti, ma quella volta l'ho visto con i miei occhi. Era assurdo. Questi criminali stavano proteggendo l'esercito. I delinquenti combattevano nelle linee dei militari, i soldati dietro e loro in prima linea. I teppisti ci bersagliavano con bottiglie Molotov e pietre, mentre le truppe ci bombardavano con i gas lacrimogeni. Vorrei rivolgermi a tutti i popoli liberi del mondo, chiedendo alla gente di non smettere mai di rivendicare i propri diritti, di non farsi ingannare dai regimi. No, ribellatevi e combattete per i vostri diritti se li credete giusti. Sono sicura che possiamo raggiungere i nostri obiettivi e che le popolazioni possano vivere in pace.